15 marzo, ciao a tutti e a tutti dalle frequenze di Radio Onda Rosso 87.9. Questa è Note Cose Città, sono le 20:16. Vi ricordo il nostro contatto 0649 1750 per mettervi in contatto con noi. Buonasera Fabio. Ciao Ale, ciao a tutti e ciao a tutti. Allora, oggi mi sa che faremo proprio una puntata lunghissima, così come lunghissime erano le performance, i concerti, gli eventi del luogo che vi stiamo per raccontare questa sera. A te la parola, mio baldo amico. Grazie per il baldo, no, il luogo è il filmorista e anche il film West, come vedremo, il locale gemello. Vabbè, lo sappiamo, la storia del rock ha segnato, ha dato ad alcuni locali lo status di veri e propri templi della musica, e appunto stasera entriamo in quello che, per restare nella metafora templio, è stato ribattezzato come chiesa del rock and roll, appunto il Filmorist, un locale leggendario che, come accennavo, aveva anche a San Francisco un locale gemello, il Fillmore West. Siamo negli anni che vanno dal 68 al 71, un periodo, non c'è bisogno forse di ribadirlo, però in cui dal punto di vista musicale successe di tutto, musicale siamo in ambito rock, e molto di quello che successe al Fillmore East. Basti pensare che lì si tenne il primo concerto in terra americana delle Zeppelin, a 2 settimane dall'uscita di Led Zeppelin 1. Al Fillmore East gli Who presentarono per la prima volta Tommy al pubblico statunitense. Qui Hendrix, e l'ascolteremo, tenne due dei suoi concerti più importanti, più celebri, più belli. Sempre qui Van Morrison nel 70 fu il primo a registrare un concerto rock che poi venne trasmesso in TV. Tutto questo. E sempre qui, perdonami, sì. I King Crimson a dicembre del 68 hanno fatto il loro ultimo concerto con la formazione, la prima, quella di In the Heart of the Crimson King. L'ho lasciato nel testo, so che ci tieni particolarmente. Ma tutto questo comunque non sarebbe accaduto senza il protagonista assoluto di questa storia, che risponde al nome di Bill Graham. In realtà il suo vero e proprio nome non è Bill Graham, perché lui nasce come Volodya Grajonka, se si pronuncia così, speriamo di sì. Nasce a Berlino e nasce nel 1931. Un po' di biografia è necessaria, perché è una vita abbastanza movimentata, diciamo così. Era il figlio minore di una famiglia ebrea emigrata in Germania dalla Russia prima del nazismo. Infatti nasce nel 31, il padre morirà 2 giorni dopo la sua nascita, e anni dopo, per via proprio delle crescenti difficoltà di sopravvivenza degli ebrei nella Germania nazista, la madre fu costretta ad affidare suo figlio insieme alle 5 sorelle a un orfanotrofio. Questo addio, questo momento drammatico della sua vita si rivelerà una fortuna, perché l'orfanotrofio lo mandò in Francia in uno scambio con orfani di fede cristiana che appunto erano ospitati in Francia. Dopo l'occupazione tedesca nel 41, parlo sempre della Francia, ha la fortuna di finire in un gruppo di ebrei a cui fu concesso l'espatrio negli Stati Uniti. Mentre invece, per dire, adesso non ci dilunghiamo sulle sue sciagure familiari, ma la madre morì dentro il campo di Auschwitz. E negli USA Volodya Grajonka diventa a tutti gli effetti Bill Graham. Anche qui non facciamo la storia, perché anche in questi anni, fino agli anni che racconteremo, insomma, di cose, di fatti. Ricordiamo che gli anni che racconteremo sono quelli a cavallo proprio dagli anni 60 e 70. Sì, no, lo dicevo all'inizio. Noi musicalmente stiamo tra il 68 e il 71, stiamo in questi anni, perché in questi anni poi tutti e due film chiuderanno e capiremo e racconteremo perché. Dicevo, Graham diventa a tutti gli effetti americano, e da americano e tira fuori tutte le sue capacità, tutta la sua caparbietà, si trasferisce a San Francisco e riesce a finire nel mondo che lui auspicava, cioè lui voleva diventare un manager, un impresario, voleva occuparsi in sostanza d'arte, e come il primo lavoro che ottiene è quello di diventare il manager impresario di un gruppo teatrale. E siamo arrivati già nel 65. In questo stesso anno accadde un fatto chiave per le sue ambizioni, perché viene arrestato il leader della compagnia teatrale per atti osceni durante una performance in un luogo pubblico all'aperto. Quindi Graham organizza dei concerti per raccogliere fondi e per le spese legali dell'attore arrestato, ma anche per il resto della compagnia. E i concerti che organizza si rivelano un grandissimo successo, quindi lui resta colpito, ha fiuto per gli affari e capisce che quella è la sua strada, quindi di fatto abbandona la compagnia teatrale e in pochissimo tempo riesce a prendere in mano la gestione di un locale storico di San Francisco, che si chiama Fillmore Auditorium. Il nome è lo stesso, perché prende il nome dalla strada, non c'entra nulla col film West, in questo caso, che racconteremo dopo. Il Fillmore Auditorium è un locale, dicevo, storico di San Francisco. Nasce nel 1912 e nasce come locale inizialmente dedicato al ballo. È un ambizioso e pensa in grande, quindi i primissimi nomi in cartellone di Graham sono già nomi importanti. E gestirà questo luogo per 2 anni e mezzo, questo locale per 2 anni e mezzo. Fra questi grandi nomi ed è con lui che abbiamo scelto di aprire la puntata, c'è Chuck Berry, grande padre, lo appella lo stesso Bill Graham quando lo presenta al pubblico. Siamo nel 1967 ed è l'ultimo grande anno musicalmente di Chuck Berry, ed è che già è sorpassato a destra e a sinistra dalle le nuove band del rock, rock emergente, insomma. E proprio per questo, probabilmente per non sentirsi troppo vecchio, Chuck Berry propone al Fillmore una scritta alternativa, cioè lascia fuori i suoi grandi successi, tutti quelli che vengono in mente, neanche Johnny B. Goode suonerà al Fillmore, e si concentra su appunto una scritta alternativa all'insegna del blues. Ad accompagnarlo c'è una band emergente, la Steve Miller Band, e la scelta del brano è stata abbastanza semplice, perché il brano si chiama Fillmore Blues. Allora, la puntata già è lunga, ma arriva un trillino che chiede di rimettere da capo Chuck Berry. E come fai? Come fai a non metterlo? Bye. E loro erano Chuck Berry con la Steve Miller Band, quindi le cose iniziano a girare subito bene per Bill Graham, che insomma, da uomo con il fiuto degli affari, capisce che questa cosa dei concerti è un bel business e quindi inizia a cercare una sede un po' più grande. Il film Auditorium conteneva all'incirca 1000 posti e quindi affitta, in attesa di trovare un posto, diciamo, definitivo, un altro luogo, sempre lì vicino, che si chiamava il Winterland. Erano 5.400 posti e il luogo dove invece Graham aveva messo gli occhi era il Carousel Ballroom, che era un altro locale che però era stato preso intanto in gestione, diciamo così, da una specie di collettivo di artisti e di band che poi sono le più iconiche di quel movimento di San Francisco, ovvero i Grateful Dead, i Jefferson Airplane e i Quicksilver. Insieme a loro però doveva esserci anche Janis Joplin, che nel frattempo aveva cambiato il proprio manager, era passata ad Albert Grossman, che l'aveva messa insieme a i Big Brother e The Ordeal Company, e gli dice: no ragazzi, voi gratis proprio non ci potrete suonare, avete firmato un contratto con la Columbia, anzi dobbiamo anche far uscire il primo disco, quello che sarebbe stato poi The Cheap Thrills. L'idea iniziale di Grossman era quella di fare un disco live per Janis Joplin. Iniziano a fare una serie di concerti registrandoli dal vivo e uno di questi concerti si svolge proprio al Winterland. Noi ce l'ascoltiamo, l'esibizione è del 1968, quindi ancora deve uscire il primo disco. Questa è I Need a Man to Love, Big Brother and the Ordeal Company e Janis Joplin. It's a new song called I Need a Man to Love. sembrava Janis Joplin. Dunque, un aspetto, direi di sì, assolutamente. Un aspetto importante è che quando i Grateful Dead e tutta la compagnia, Jefferson, Quicksilver, eccetera, presero il ballroom in gestione, lo facevano proprio per opporsi a questa tendenza che Graham stava portando avanti, ovvero quella degli spettacoli dal vivo a pagamento. Loro infatti proponevano spettacoli, concerti, happening e quant'altro, tutta in maniera assolutamente gratis per la comunità di San Francisco. Sì, ricordiamo sempre che siamo poi nel 68, quindi insomma anni particolarmente caldi sotto questo punto di vista. E il progetto del collettivo di artisti che nominava Primale abita abbastanza breve, perché innanzitutto perché loro non fanno quello di lavoro, non fanno gli impresari, e quindi anche in una gestione collettiva così non riescono a gestire un locale di quelle dimensioni, e anche perché poi i nomi che suonano sono poi sempre gli stessi, e quindi anche il pubblico comincia a perdere interesse se vede continuamente gli stessi nomi in cartellone. Quindi insomma quello che si chiamava Carousel Ballroom, che è un locale che non abbiamo detto prima, è 1,5 miglia dal film L'Auditorium, cioè il primo locale che ha gestito Bill Graham, quel progetto insomma fallisce e il Carousel Ballroom finisce nelle mani di Graham, che nel luglio 68 lo rinomina Fillmore West, e gli affari vanno alla grande, la scena musicale rock lo continuiamo a ribadire in pieno fermento, e a Graham semplicemente serviva un locale più grande per fare più eventi, per fare più soldi anche, cercava quello, e quello riesce ad ottenere. Uno dei primi concerti organizzati nel nuovo locale da Graham è quello della Paul Butterfield Blues Band. Il concerto ha un successo così grande che resta sorpreso lo stesso Bill Graham, resta così tanto sorpreso che vuole diventare il promoter della band. Ci riesce, non lo diremo in questa puntata perché abbiamo un sacco di cose da raccontare, però Graham, oltre a fare l'impresario di due locali così importanti, è anche diventerà manager di diverse band che magari qualcuna neanche riusciremo a nominarla stasera. Però il concerto della Paul Butterfield Blues Band, al di là di questo fatto, è importante per un altro motivo, perché è proprio grazie a questo concerto che Bill Graham farà la conoscenza di un giovanissimo Carlos Santana. L'aneddoto sul loro incontro è abbastanza curioso, perché Carlos Santana è giovanissimo, non c'ha particolari dollari in tasca, vuole vedersi la Paul Butterfield Blues Band, probabilmente dopo qualche decina di bottiglie di tequila, non lo sappiamo, comunque sceglie di entrare rompendo una vetrina, quindi insomma in maniera abbastanza plateale, talmente plateale che viene preso per le orecchie, le butta fuori e portato da Graham. Viene portato da Graham non perché chiunque provasse a entrare in quella maniera veniva portato dal grande capo, no, perché Santana, per gli addetti ai lavori, già era un nome che già circolava, si erano capite le sue qualità. Graham era curioso e quindi non solo rimane anche divertito dal fatto, lui insomma vuole conoscerlo, e tra i due nasce subito una scintilla, nasce una grande amicizia, un'amicizia anche legata poi agli affari, perché Graham diventerà dei Santana il manager, starà lui a insistere e a portare sul palco di Woodstock, e poi capiremo perché lui ha a che fare con quel concerto, lo racconterà lei dopo, però insomma lui riesce a portare i Santana, ancora abbastanza sconosciuti, poi sul palco nell'agosto del 69 sul palco di Woodstock. Nello stesso tempo, nonostante facesse questo lavoro non da tantissimi anni, Graham comincia a maturare nei primi mesi di gestione del film West una sorta di, come dire, insofferenza verso i comportamenti rock and roll, diciamo così, degli artisti. Cioè lui delle cose da uomo d'affari non riesce a capire sul perché suoni devi suonare alle 21 e ti presenti alle 3 di notte o non ti presenti, insomma, e i fatti di questo genere sono tantissimi, però c'è uno che è importante per noi raccontare e riguarda Mike Bloomfield, il chitarrista, che è in cartellone al Fillmore West insieme al tastierista Al Cooper dal 26 al 28 settembre del 68. Bloomfield, dopo la seconda serata, infatti entra in crisi e semplicemente non vuole più suonare, si rifiuta di suonare. Graham, che è un uomo molto pratico, non si fa, diciamo, spaventare da questo improvviso buco. E anche perché, permettimi, lui ogni volta che c'era il Cooper in cartellone gli noleggiava personalmente un organo che costava ben $200 a serata. E diciamo che al Cooper diciamo, diciamo se lo meritava, quindi lui non vuole perdere soldi, non vuole rovinare la serata, adora al Cooper e quindi semplicemente c'è Santana in mezzo al pubblico e dice: Carlos, è la tua serata, sali sul palco. E a tutti gli effetti quella sera, senza nessuna prova prima, e Santana tra la chitarra solista della suonerà insieme al Cooper e non se la cava affatto male, al punto che su The Live Adventure of Mike Bloomfield and Al Cooper, il doppio live registrato durante quelle serate al Film West, Al Cooper insiste per includere, lui sarà il produttore dell'album, per includere nella scaletta un pezzo suonato con Santana quando appunto Bloomfield era latitante. L'album, almeno le prime stampe, non riporteranno nei crediti il nome di Carlos Santana, come nelle prime stampe riporteranno un errore, anzi questo errore si è trascinato negli anni. Cioè, scrivono che l'album è stato registrato al Film Auditorium, noi sappiamo in realtà che si chiama è il Film West e che non solo è un altro nome, è proprio un altro locale. Quindi abbiamo Al Cooper, abbiamo Santana alla chitarra, il pezzo che abbiamo scelto, che è l'unico poi messo nell'album, l'unico con Santana, si chiama Sonny Boy Williamson. This is a song written by Jack Bruce that also you don't hear too much of. E bravo al Cooper e bravo Carlos Santana alla chitarra, che ha risolto, ha svoltato la serata per Bill Graham e tutto il pubblico che era andato ad assistere al concerto. Noi dobbiamo fare un piccolo salto indietro, ma non soltanto, perché dobbiamo anche cambiare costa. Infatti arriviamo al primo marzo, sempre del 1968, perché prima di diciamo aprire, formalizzare il film West, Graham a New York aveva aperto il Fillmore East, e da qui appunto ha dato il nome a quello di San Francisco. Che va sottolineato che molto più famoso, cioè almeno nel oggi è rimasto molto di più nella memoria. Ah, sì, sì, assolutamente, il Fillmore East. E siamo al 105 della Second Avenue, siamo nell'East Village, nel cuore di Manhattan, e prima era conosciuto come il Village Theater. Questo luogo fu usato da Timothy Leary, che ci teneva lezioni di psichedelia e su come assumere al meglio gli acidi, prima ovviamente che fossero dichiarati illegali. Poi fu preso da Andy Warhol, che lo usò come spazio per i concerti, per gli happening anche di Velvet Underground. Aveva una capacità un po' più grande di 2700 persone il Fillmore East. È stato il primo teatro di New York a prendere sul serio, così almeno lo definisce la stampa, il rock dal vivo, e fu soprattutto anche uno dei primi grandi sistemi audio, perché fu progettato da Bill Haley, era soprannominato il padre del Sound Festival, ovvero l'uomo che ha anche creato l'amplificazione a Woodstock. E qui arriva Woodstock, perché poi tutta la macchina organizzativa del Fillmore si sposta proprio per l'organizzazione del famoso festival del 1969. Al Fillmore East c'erano due spettacoli per ogni notte, in genere erano e tre le band che si alternavano. Il primo spettacolo iniziava alle 20, l'altro alle 23:30. Il prezzo del biglietto variava tra i 2, 3 e i 5 dollari, a differenza degli spettacoli al film West. Qui il locale tra un set e l'altro veniva anche pulito. L'inaugurazione ci fu l'8 marzo 1968. Graham volle Janis Joplin per inaugurare il concerto, però insomma ormai i locali erano aperti, la musica era bellissima, incassi da capogiro, dall'esterno tutto sembrava filare per il meglio per Graham, ma le cose non erano proprio così, perché lui era praticamente odiato da tutto l'ambiente musicale. Si districava tra burocrazia, manager, etichette discografiche che pretendevano che per ingaggiare un gruppo, diciamo, dovesse ingaggiare tutto il pacchetto. Quindi se vuoi per esempio i Cream, ti prendi anche Pupo e Nino D'Angelo, facciamo un esempio così, insomma, che rende l'idea. Rispetto per Nino. I cantanti viziati, i giornalisti, la comunità del quartiere che chiedeva concerti gratis, e qui ci ritorneremo. A San Francisco ci hanno provato i Grateful Dead, l'abbiamo visto prima, le cose non erano andate proprio come speravano. A New York la situazione era ancora peggio, la racconteremo tra un pochino, appunto. Noi intanto ci ascoltiamo il gruppo, diciamo, che può essere considerato quello residenziale del film, ovvero quello che ha suonato più di tutti, si è esibito in entrambi i locali, e sono proprio i Grateful Dead che chiedevano concerti gratis e poi invece si sono andati a esibire a pagamento per Graham. E loro gli davano veramente tante pene, gli piacevano tantissimo a Graham, però racconta lui stesso tantissimi aneddoti. Uno in particolare che ci sembra carino, dice: avevano il cervello totalmente bruciato, a volte io gli prenotavo l'aereo da San Francisco per andare a New York e fare il concerto la sera stessa. Loro si svegliavano con calma e mi chiamavano, mi dicevano: guarda Bill, è una bella giornata, non veniamo con l'aereo, mi sa che ci affittiamo una macchina e veniamo in macchina. E io che gli dovevo far capire che forse se fossero partiti da San Francisco sarebbero arrivati a New York 3 giorni dopo il concerto. Noi ci ascoltiamo da un live al Fillmore East, Grateful Dead, China Cat Sunflower. Jingle in the midnight sun. strip of silver, kimono like a plane, feel the star girl for a dream. Get peeking through a lace, bandana like a wall, I treasure like a dam, but I jet a leaf of all colors, plays a golden string fit up to a double. You wanna fall all over my bed. Finisce proprio così, tagliata. Scusa Fabio, mi passeresti un trip? Ok, era per entrare un po' nello spirito della puntata. Dunque, un'altra grande intuizione di Bill Graham fu quello che la psichedelia di quegli anni doveva anche avere un'immagine, non soltanto quindi un sonoro, diciamo, ma un'immagine proprio grafica. E si legò quindi in questo periodo ai Big Five, che erano un gruppo di artisti legati molto spesso alle band che disegnavano le locandine del Fillmore. Considerate che sono stati loro che poi hanno inventato quel carattere con cui ancora oggi quel fonte con cui associamo quel tipo di musica, quel carattere molto liquido. Furono loro che, oltre a disegnare anche le copertine del Fillmore, si occuparono poi anche della pubblicità poi di Woodstock, no? ma nel film Orista questo, diciamo, questa cosa andò fu portata ad un gradino ancora superiore, perché infatti inizia a collaborare con Joshua White, che era un artista visivo le cui proiezioni sullo sfondo del palcoscenico con delle luci accompagnavano proprio le esibizioni degli artisti durante i concerti. The Joshua Light Show divenne uno dei marchi di fabbrica del film, e non a caso lo troviamo immortalato nella copertina degli Iron Butterfly in Agata da Vita, ma anche in uno degli album e dei concerti più iconici realizzati dal film Orista, ovvero quello di Jimi Hendrix e della Band of Gypsy. Appunto, quindi è il momento, è la palla perfetta, il momento topico perfetto per parlare del prossimo artista in scaletta. L'artista, lo avete capito, lo sentite sotto, è Jimi Hendrix. Hendrix suonerà al film Orista tra il 69, tra il 31 dicembre del 69 e il 1 gennaio del 70. La prendo un po' lontana la storia, perché è importante. Il 69 è un anno fondamentale nel bene e nel male nella carriera di Hendrix. Innanzitutto la sua fama dopo l'uscita nel 68 di Electric Ladyland è all'apice. Allo stesso tempo cominciano a emergere problemi all'interno della band, del trio. Infatti il bassista Nell Reading, stremato dal faticoso tour intrapreso Experience nella prima metà del 69, stanco della lentezza nel tirare fuori le canzoni per il quarto album che di fatto non uscì mai di Hendrix, con lui in vita intendo, ma stremato anche dal rapporto faticoso con Hendrix, insomma abbandona il gruppo. Jimi Hendrix coglie l'occasione dell'abbandono del bassista per realizzare un'idea che coltivava da tempo, cioè un gruppo che avesse anche una sezione di percussioni, una seconda chitarra, perché lui voleva un sound più forte. E in questo frangente, in questo momento della sua vita artistica, entra in scena il bassista Billy Cox, un vecchio amico di Hendrix con cui si erano conosciuti sotto le armi. Alla band, cioè, Mitchell resta alla batteria, si aggiunge Larry Lee alla chitarra, ritmi ovviamente, e Jerry Velez e Juna Sultan alle percussioni, e con questa formazione che verrà ribattezzata Gypsy Sun and Rainbows, Hendrix suonerà a Woodstock, l'abbiamo nominato prima, il 18 agosto del 1969. Il dopo Woodstock segna però la fine di questa formazione allargata, perché quando si chiudono in studio per lavorare un album non riescono ad andare da nessuna parte, e lo stesso Hendrix, che ha perso un po' la bustola in questo momento, quindi lui è un momento particolare, cade un po' in difficoltà, in depressione dal punto di vista artistico, e soprattutto è un po' oppresso da problemi legali. Il problema legale, sostanzialmente quello più importante, era uno: il fatto che lui avesse firmato nel 65 un contratto con la Capitol che non aveva mai onorato. Quindi la Capitol, Hendrix era diventato nel frattempo un gigante. Dice a livello planetario, viene a battere cassa, le azioni legali potevano essere molto dolorose per Jimi Hendrix, quindi lui accetta una proposta che si definisce amichevole, cioè Hendrix accetta il fatto di registrare un album e darlo alla Capitol. Quindi in questa circostanza vengono in aiuto Billy Cox, che resta al suo fianco, il bassista, e Buddy Miles, che lui chiama alla batteria. Siamo a ottobre del 69, i tre si chiudono in studio, negli studi di Hendrix, per scrivere pezzi nuovi e per riarrangiare i pezzi dell'Experience che sarebbero rimasti nella scaletta. Quindi passano ottobre, novembre e dicembre sostanzialmente a preparare un ritorno sulla scena. Questo dice Buddy Miles nella sua biografia. La Band of Gypsy nacque nell'ufficio di Alan Douglas con Bill Graham, che ci aveva organizzato le serate al film Orista. Io e Jimmy eravamo andati a chiedergli se ce l'avrebbe fatte fare, e lui non riusciva a crederci, e lo credo bene. Bill Graham è così contento, è così onorato, contento del fatto che Hendrix avrebbe suonato nel suo locale, che appunto, come dicevo, tiene le due serate più importanti dell'anno, probabilmente i due show, i due set del 31 dicembre del 69 e i due del 1 gennaio del 70. E il trio, lo saprete, esistono testimonianze live, infiamma letteralmente il Fillmore, e due settimane dopo lo spettacolo Hendrix si chiude col suo fidato ingegnere del suono Eddie Kramer, assemblano le registrazioni dei concerti, scelgono insomma le tracce che avrebbero composto l'album Band of Gypsy, lo consegnano alla Capitol, Hendrix è libero e spera qui di prendere appunto, di dare una svolta alla tua carriera e quindi di restare in una formazione con un sound più black, spiccatamente più black, con lunghe improvvisazioni, insomma con grande spazio di improvvisazioni. Purtroppo lo sapete, non ci darà tempo, perché nell'estate del 70 Hendrix morirà a Londra. Di quella... Facciamoci un po' di pubblicità, noi gli abbiamo dedicato una monografia a Jimi Hendrix, la trovate ovviamente sul sito della Radio Onda Rossa. Bravissimo. E abbiamo detto che esiste Band of Gypsy, l'album live, però per soddisfare i fan che hanno letto ovunque della bellezza dei 4-7 suonati al Fillmore, nel 99 l'Experience in Hendrix, cioè la società gestita dal padre di Hendrix, che è riuscita a conquistare dopo una lunga battaglia legale i diritti, insomma, pubblicherà un doppio album live at Fillmore East in cui è inserita l'intera scaletta di quei quattro show. Noi però ci ascoltiamo un pezzo preso dall'album originale, diciamo così, Band of Gypsy. La canzone che abbiamo scelto, c'era l'imbarazzo della scelta, abbiamo scelto Message of Love, dove Jimmy suona uno dei suoi riff più celebri e più belli. Jimmy's gonna do a thing that he wrote called Message of Love. We'll be right back. Sua Maestà Jimi Hendrix a Note Cose Città in questa puntata dedicata ai Fillmore di Bill Graham. L'abbiamo accennato prima, la situazione a New York era praticamente fuori controllo contro Graham, ora si scagliavano anche gli Up Against the Wall Motherfucker. Erano il gruppo di anarchici, dadaisti, si definivano agitatori politici che operavano nell'East Side, il gruppo fondato da Ben Morea, il pittore, quello che sembra fornì anche la pistola a Valerie Solanas, l'aspirante omicida di Andy Warhol, quando gli chiesero ma perché, dice beh perché Andy Warhol ha rovinato l'arte, l'ha resa una merce, sì gli abbiamo sparato però non volevamo ucciderlo, insomma niente di serio. Hoffman li definiva l'incubo del ceto medio americano e gli Up Against the Wall Motherfucker chiedevano che un giorno a settimana Bill Graham lasciasse il Fillmore gratis per la comunità. Graham supponeva, arrivarono anche alle mani, anzi in realtà arrivarono anche alle catene, visto che Graham se ne prese una in faccia. Un giorno durante un concerto il gruppo entrò all'interno del locale, legarono in pratica Graham a una sedia con tutto il pubblico che gli urlava contro: Graham sei un maiale, facci entrare gratis. Un pomeriggio, mentre Graham era nel suo studio, stava al telefono stava al telefono insieme a Bloomfield, che tanto per cambiare gli stava dicendo che quella sera non si sarebbe presentato a suonare. Gli rompono nello studio, lui gli mostra, apre un cassetto, gli mostra due pallottole, gli dice vedi queste me le hanno mandate gli Hells Angels, quindi io certo non ho paura di voi, sono scappato dall'Europa inseguito dai nazisti, sono andato nel Bronx, mi sono affiliato a una banda i cui colori sono quelli che vedete all'interno del film, e quindi io di voi proprio non ho paura. Però poi alla fine, anche per motivi di ordine pubblico, per la pressione, si accordano. Il mercoledì diventa la serata gratis in cui il Fillmore West è aperto a tutti, il Fillmore East è aperto a tutti. L'esperienza dura abbastanza poco, perché poi in realtà Graham dice ho dovuto smettere subito, intanto ogni volta che entravano mi rubavano tutto, quindi il giorno dopo non trovavo più microfoni, amplificatori, tutto quello che c'era da rubare me lo rubavano. Poi la capienza 2500 persone, io aprivo a 3000, fuori c'erano altre 5000 che mi insultavano, che mi dicevano ah sei uno stronzo, non ci fai entrare, hai promesso che era gratis. In più dentro si drogavano come bestie, la polizia veniva da me a dirmi sei tu il responsabile, se non li fai finire chiudiamo tutto. E quindi la serata, il mercoledì gratis, è durato molto poco a New York. Noi il prossimo brano che vogliamo ascoltare, avevamo un ventaglio di concerti veramente incredibile, niente male, però ne abbiamo scelto uno perché oggi è il suo compleanno, 79 anni, Sly Stone, uno degli artisti, uno dei più grandi talenti che si è buttato via per colpa della cocaina, ha buttato via una carriera incredibile, un patrimonio, una famiglia, la moglie l'ha lasciato insieme al figlio, il manager lo ha truffato, per lui per un gran periodo non ha preso più le royalty per i suoi brani. Le Black Panther a cavallo negli anni 60 gli imponevano di impegnarsi di più a livello politico, spacciatori, trafficanti vari che lo minacciavano, e insomma è andato in bancarotta, ha cominciato a vivere in strada, entrava e usciva dal carcere. Se per caso oggi vi trovate nei prossimi giorni andare a Los Angeles, è capitato al quartiere di Crenshaw, è un quartiere residenziale, lì c'è un camper bianco, lo vedete lungo le strade, campeggia una scritta Via del Piacere, e lì è il camper dove oggi abita Sly Stone. Il brano che ci ascoltiamo si chiama Are You Ready? È un live al Fillmore East e lui è Sly and the Family Stone. Sly and the Family Stone, bianchi e neri sul palco per la prima volta per il pubblico americano, donne che suonavano e uomini che cantavano, peggio mi sento. Beh, insomma, andiamo comunque avanti. Come si chiama l'album da cui è tratto? Live at Fillmore East, aprile 71. Questo, vabbè, per dire, sono stati veramente una vagonata di grandi album live registrati al Fillmore. A tutti e due, in particolare al Fillmore, lo spiegava alle prima, tra le qualità del locale e quindi anche tra le qualità delle scelte di Graham, c'era anche un impianto audio che non sembra non avesse rivali, anche, e non è casuale che tantissimi artisti hanno scelto poi di registrare il loro album lì dentro. E siamo stati finora sostanzialmente, abbiamo forse cambiato adesso con Sly, ma dentro un genere che certamente il rock, l'abbiamo detto all'inizio, la chiesa del rock veniva chiamato il Fillmore, quindi di quello trattiamo, ma nei due locali non c'è stato soltanto rock, anche il jazz ha fatto la sua comparsa. Adesso stiamo sentendo la mia voce, purtroppo sto guastando le note di Miles Davis. Miles Davis ha registrato un album live al Fillmore, tanti altri musicisti jazz. L'artista che presentiamo adesso ha registrato un album live pazzesco, forse potrebbe essere anche il più bello registrato in uno dei due locali di Bill Graham. E lei non siamo nel jazz, però certamente non siamo nel rock, parliamo di Aretha Franklin. Lei ha registrato un album nel febbraio del 71, lo dicevo prima, al Fillmore West, un album registrato da Ray Thompson e prodotto da Jerry Wexler e Arif Mardin. Dicevo, uno degli album live più amati e uno dei dischi più belli di Aretha Franklin. Per questo concerto lei scelse di non esibirsi con la sua solita band, ma chiamò i King Curtis and the King Pins, una delle formazioni più potenti in circolazione allora, e volle sul palco anche i grandi turnisti, Carnell Dupri alla chitarra, Bernard Purdy alla batteria e soprattutto Billy Preston all'organo. Non contenta, ed era giovanissima e già poteva pretendere parecchio, ai fiati ci sono i Memphis Horns e le Sweet Hearts of Soul ai cori. Insomma, un parterre pazzesco di artisti, una serata incredibile. A un certo punto di una serata già così incredibile succede qualcosa di ancora più straordinario. Ray Charles è seduto tra il pubblico, Aretha lo chiama, lui sale sul palco insieme, improvvisando di fatto, cioè cantano senza averlo preparato prima, cantano un brano che si chiama Spirit in the Dark, lo ascolterete. la cosa funziona talmente tanto che il giorno successivo Areta aveva due date. Ray torna sapendo che poi sarebbe stato chiamato, però l'esibizione finita poi sull'album è quella, diciamo, più vera, più autentica, perché Ray probabilmente non sapeva che avrebbe cantato. Le parole davvero non servono a spiegare. Se potete alzare il volume, godetevelo, perché è una cosa pazzesca. Aretha Franklin insieme a Ray Charles cantano Spirit in the Dark. Yeah. on, listen to this. Can you feel the spirit? Wait a minute. Can you feel the spirit? When you hear Aretha sing, y'all. Oh, Lord. Can you feel the spirit? When my woman wake me up in the morning. She give me the spirit. Oh, when I'm on my last go round. I need a little spirit. It's good for my soul. Oh, yes it is. Yeah, I'm reminding. Oh, Lord. I get a little spirit. Questi applaudono, grazie che applaudono, perché ve possi, no? Senti che bomba. Comunque, di bis importanti al film non c'è stato solo questo, ce n'è stato anche un altro che vogliamo raccontare. Vediamo se riesco a mettere insieme tutti i pezzi senza perdermi nulla. Dunque, il 5 e 6 giugno del 1971, Frank Zappa partecipò con due esibizioni a sera, scusatemi che abbasso un pochino il volume, al Filmorista. Un giornalista del Village Voice, si chiamava Howard Smith, la mattina del 5 giugno lo doveva intervistare, quindi va nell'hotel dove stava Zappa, al numero 1 della Fifth Avenue, e si presenta insieme a due ospiti, una coppia di amici che si era da poco trasferita a New York, o quantomeno si stava per trasferire. Si chiamavano Yoko Ono, John Lennon e John Lennon, scusami un attimo che ho un piccolo problemino. E anche l'incontro è molto curioso, perché appena Zappa apre la porta, Lennon gli dice: ah, pensavo di trovare tutte donne nude e te seduto sulla tazza del water. E Zappa gli risponde: io pensavo che tu e Yoko sareste venuti nudi. Questo è stato proprio il primo impatto da questi artisti. Comunque, alla fine Zappa li invita a partecipare a un bis per il secondo spettacolo, che si sarebbe tenuto quindi alle 11:30, e così va. Lennon accetta. Alla fine del terzo bis dei Mothers, il pubblico stava per andare via. A un certo punto qualcuno dice: scusate, ma sta salendo sul palco, ma quello è John Lennon e lei è Yoko Ono. E quindi iniziano a suonare insieme. Il primo brano che fanno, Gianni Minà c'era? Gianni Minà c'era? Chissà se Gianni Minà c'era. Il primo brano che fanno è Baby Please Don't Go. Stiamo sentendo la presentazione di Zappa, e Lennon dice: sì, questo qui è un brano che non suonavo dai tempi degli esordi al Cavern insieme ai Beatles. Poi fanno un altro brano di Zappa, si chiama King Kong, che però durante, diciamo, l'esibizione lo taglia Zappa, lo fa diventare una jam, perché non era molto convinto degli ululati che Yoko Ono stava improvvisando. Ora, poi fanno un altro paio di brani insieme, finisce il concerto, qualche sera dopo si incontrano in un ristorante per organizzare la gestione di questo materiale, e si accordano sul fatto che sia Zappa che John Lennon lo potevano utilizzare a proprio piacimento. L'unica condizione era che ad agosto del 1971, quindi pochi mesi dopo, sarebbe uscito il live al Fillmore di Frank Zappa e lui non poteva mettere questi brani all'interno del disco. Per la prima volta quindi questi bis escono nel 1972, ma su un disco di John Lennon che è Sometime in New York, che conteneva un secondo album, Live Jam, che conteneva esso stesso alcune esibizioni della coppia Lennon e Yoko Ono, ma esce con i brani che vengono suonati, escono intanto con i titoli cambiati e soprattutto vengono accreditati proprio a nome di John Lennon e Yoko Ono. La cosa farà ovviamente infuriare Zappa, oltre al fatto che è anche arrabbiatissimo per il messaggio che Phil Spector, il coproduttore del disco, fa dei brani, lui abbassa i volumi ad alcuni musicisti, alla chitarra di Zappa, e dà molto risalto alla voce di John Lennon. Poi Zappa riuscirà a pubblicare soltanto nel 92 nella sua versione. E prima di ascoltarci Baby, Well, Baby Please Don't Go, che è il brano che stiamo sentendo in sottofondo nella versione di John Lennon, una piccola curiosità che poi forse ci dice quanto John Lennon aveva ancora un po' di rancore per la parodia che Zappa fece nel 69 di Sgt. Pepper con We All Eat For The Money. Il disco che esce Live Jam riprende esattamente la copertina del live al Fillmore e di Zappa, quindi gli ha rubato i brani, se l'è presi lui i credit, gli ha anche rubato la copertina, ma comunque il bis resta qualcosa di meraviglioso. Noi ce l'ascoltiamo nella versione di Zappa, che è molto più rude, molto più rock. Il brano si chiama Well, Live at the Fillmore East, siamo a New York 1971 ed è anche uno degli ultimi concerti che si faranno in questo storico locale. You know I love you. Don't go. Well, no, I love you, baby. Please don't go. Well, no, I love you, honey child. There's nothing I wouldn't do for you right. Oh, Eh sì, qui è tagliata così, infatti nel brano di John Lennon c'è alla fine la sfumata con il pubblico e Zappa invece lo taglia così. Una cosa che non ho detto prima, tra 3 giorni uscirà un cofanetto che si aspettava da parecchio tempo, che conterrà grandissimo materiale tratto dalla tournée del 1971, l'anno chiave per i Mothers, quello che insomma fu l'anno del concerto in Svizzera con l'incendio, l'anno in cui fu buttato giù dal palco di Londra, dove poi fu costretto per un anno a stare sulla sedia a rotelle, e tante altre cose. Noi siamo arrivati alla fine, è una fine piuttosto lunga, abbiamo un sacco di cose da raccontare. E il 6 maggio del 1971, a pagina 45 del Village Voice, appare la seguente lettera, è scritta da Bill Graham. Cerco di non leggerla tutta, di tagliare alcune parti, però è molto interessante perché poi tocca anche alcuni temi di assoluta lasciamo parlare la lettera. Attualità. Cari amici, sin dalla creazione del Fillmore era mia unica intenzione non fare nulla di più o di meno che presentare i migliori artisti contemporanei sui migliori palchi e nelle sale più piacevoli. La scena è cambiata e alla lunga siamo tutti in un modo o nell'altro in colpa, e tutto quello che so è che ciò che esiste ora non è quello con cui abbiamo iniziato, e ciò che vedo intorno a me ora non sembra essere un'estensione logica e creativa di quell'inizio. Pertanto colgo l'occasione di annunciare la chiusura del Fillmore e il mio eventuale ritiro dalla produzione dei concerti. Il processo inizierà con la chiusura formale di Fillmore East domenica 27 giugno 1971, e qui elenca 7 punti. Punto 1. L'inflazione irragionevole e totalmente distruttiva della scena dei concerti dal vivo. 2 anni fa ho avvertito che la sindrome del festival di Woodstock sarebbe stata l'inizio della fine. Mi dispiace dire che avevo ragione. Nel 65, quando abbiamo iniziato con l'originale Fillmore Auditorium, ho assunto musicisti. Ora, il più delle volte, è con ufficiali e azionisti di grandi società, solo che hanno i capelli lunghi e suonano la chitarra. Riconosco il loro successo, ma condanno ciò che quel successo ha fatto ad alcuni di loro. Io continuo a deplorare lo sfruttamento dei concerti nelle sale gigantesche, molti dei quali con biglietti costosi. L'unico incentivo di troppi è semplicemente il denaro. Le condizioni per tali spettacoli, oltre a mancare di intimità, sono anche impossibili secondo i miei standard. Punto 2. Ho sempre sperato di poter presentare artisti il cui valore musicale ritenevo importante, artisti la cui musica fosse valida. E ci sono più artisti di qualità oggi, ma molti di quelli che esistono non appaiono regolarmente in pubblico, e pertanto per rimanere in attività sarei costretto a presentare artisti la cui musicalità fosse al di sotto delle mie aspettative personali. Punto 3. Con tutto il rispetto per il ruolo che svolgono nell'assicurare il lavoro agli artisti, gli agenti hanno creato un nuovo gioco. Semplicemente, se il film vuole un headliner importante, allora siamo spesso costretti anche a prendere il secondo e il terzo artista su cui insiste l'agente o il manager, indipendentemente dal fatto che saremmo o meno orgogliosi di presentarlo. Punto 4. All'inizio sia di East che di West il livello di pubblico sembrava molto più alto in termini di raffinatezza musicale. Ora ci sono troppe urla con un totale disprezzo per la qualità, e questa era una cosa di cui si lamentò anche Frank Zappa proprio dopo il concerto al Fillmore. Punto 5. Il tempo e l'energia che mi sono richiesti per mantenere un livello di competenza nel mio lavoro sono cresciuti così tanto che mi hanno semplicemente privato di una vita privata. Il tempo libero e la privacy sono una cosa di cui ogni uomo ha diritto e che io sento di non potermi più rifiutare. Punto 6. Per anni ho subito gli abusi di molti membri del pubblico e nella stampa, la maggior parte delle volte erano persone... Perché non mi conoscevano, e raramente mi è stata data risposta del fatto che una volta che mi hanno conosciuto non hanno saputo poi più parlare male di me. E punto 7. Il rock è stato buono con me in molti modi, ma l'ultimo e semplice fatto è che sono stanco. L'unico motivo per mantenere il film in funzione a questo punto sarebbe fare soldi, e sebbene pochi abbiano mai scelto di credermi su questo punto, il denaro non è mai stata la mia principale motivazione. Poi conclude dicendo: il film sarà soltanto un ricordo del mio passato, lo ricorderò con profonda commozione e affetto i grandi e gioiosi momenti che abbiamo passato insieme. Ringrazio sinceramente artisti, soci in affari che hanno contribuito al nostro successo, ma avverto il pubblico a guardare attentamente a cosa porterà il futuro. La scena rock in questo paese è stata creata da un bisogno sentito della gente, espresso dai musicisti e spero aiutato in una certa misura anche dagli sforzi del Fillmore. Ma qualunque cosa sia diventata quella scena, ovunque si sia trasformata nell'industria musicale dei festival, sale da 20.000 posti, la qualità di produzione miserabile e promotori di secondo ordine. Per favore, ognuno di noi si fermi a pensare se o no l'ha permesso, indipendentemente dal fatto che lo abbia sostenuto o meno. E poi finisce col salutare lo staff che ha lavorato con lui per tutti questi anni e conclude a loro e a molti musicisti che sono cresciuti di statura senza mai cedere, a quegli amorevoli mecenati che entrambi si sono rifiutati di sostenere le fregature della maratona e che si sono persino presi il tempo di criticarmi per gli errori che ho commesso, a tutti voi i miei più sentiti ringraziamenti e addio. Cordiali saluti, Bill Graham. Insomma, poi dopo Bill Graham, siamo nel 71, insomma la sua storia continua adesso, diciamo a grandissime linee. Dopo la chiusura del film, lui in realtà restò in pista perché organizzò un tour leggendario dei Rolling Stones, l'American Tour, passato alle cronache come STP Tour. Dopo si ritirò davvero in un'isola greca, voleva staccare da tutto, ma resse poco, non sopportò a lungo la quiete. Quindi tornò negli Stati Uniti, tornò di fatto a promuovere concerti, affittò la Winterland Arena e quindi tornò nella sua San Francisco. E fammi dire, scusami, che entrambi i Fillmore saranno chiusi con tre serate. Sì, questo l'avremmo detto. Sì, no, saranno chiusi con un evento, tre serate. Entrambe le serate finirono in due album, in due raccolte differenti, ma insomma non è poi così rilevante. Durante gli anni 80 Graham promosse, sembra perché ci credeva davvero, tanti concerti di beneficenza e tornò sulle prime pagine nei telegiornali a metà anni 80, quando ebbe uno scontro con Reagan, perché Reagan andò poi di fatto al cimitero di Bitburg in Germania, un cimitero dove sono sepolti gli ufficiali dell'SS, e Graham organizzò delle proteste, insomma si spese pubblicamente contro questa scelta del presidente degli Stati Uniti di allora. E durante lo stesso mese in cui Reagan poi visitò il cimitero, comunque l'ufficio di Graham, credo a Los Angeles se ricordo bene, fu oggetto di un attentato, pare di nazi. Poi Graham morì in un incidente con un elicottero a Vallejo in California, quando tornava, guarda caso, da un concerto. 1991, quindi qua è finisce la storia. Nella Rock and Roll Hall of Fame. Certo, però insomma, peserebbe tanto altro, gli hanno titolato strade, gli hanno titolato locali. E oggi il film, non so se lo stavi per dire, oggi il film resiste ancora, esiste sotto un'altra gestione, appartiene a una multinazionale, Live Nation, e continuano a farci concerti. Al posto del filmorista oggi c'è una banca, davanti alla banca c'è un palo che ho scritto: qui giace il filmorista. Ottimo. Però noi chiudiamo con una canzone e il disco che, certamente direi che più di ogni altro è legato al Fillmore, quello East in questo caso. È un disco che è stato registrato il 12 e il 13 marzo del 1971, lo stiamo sentendo sotto da un po', è stato registrato da sei ragazzi provenienti dal profondo sud degli Stati Uniti, dalla Georgia, allora ancora abbastanza sconosciuti. L'album uscirà a luglio dello stesso anno, sarà uno dei primi LP doppi dal vivo della storia della musica. Il titolo dell'album è The Allman Brothers Band at Fillmore East. L'album contiene standard blues e canzoni degli stessi Allman Brothers, diradati come in questo caso da numerose e lunghissime improvvisazioni. Qua siamo sui 26 minuti, per dire, era tutt'altro mondo e anche l'ascolto era completamente diverso dall'ascolto che si fa mediamente oggi. Negli anni testimoniano il fatto che è uno dei dischi più importanti mai registrati dal vivo. I sei sarebbero tornati sul palco tre mesi dopo, questa volta per celebrare il canto del cigno del film East, loro andranno in quello. Quindi sembra che abbiano suonato per tutta la notte, il concerto si è finito all'alba. Quando uno degli ultimi del pubblico ha aperto la porta del locale, ha fatto entrare la luce e gli Allman Brothers... Sembrava non fosse rimasto quasi proprio nessuno dentro. Esatto, sembrava di stare in chiesa e a un certo punto si è aperta la luce che ci ha illuminato. Noi ovviamente quindi chiudiamo con gli Allman Brothers Band, chiudiamo almeno per sentire la chitarra straordinaria di Don Allman. abbiamo scelto come canzone Stormy Monday. Quindi siamo arrivati a fine puntata. Noi ci sentiamo. Grazie a tutti prossimo. Quelli che ci hanno seguiti. Siamo sostenete la radio. E dai, Allman Brothers, Stormy Monday. Ciao. While we're doing that blues thing, we're going to play this song, Bobby Blair song for you. Actually, it's a T-Bone Walker song. Mm-hmm.